Aloha, buongiorno e ben ritrovati. Io sono Chuck Bird e questa è l'Early Bird Special, la primissima colazione che serviamo tutti i giorni dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Il programma è di una semplicità fino banale. C'è della grandissima musica, ma questa è praticamente 24 ore su 24 da Rock FM, e c'è il vecchio Chucky Boy che vi racconta qualche bella storiella sulla vita e le opere e quei pochi miracoli delle rock and roll star preferite. Iniziamo alla stragrande questo lunedì, perché ci vuole qualcosa di veramente forte per partire col piede giusto nella settimana. I Birds, Mr. Tambourine Man. Mr. Tamburino, suona una canzone per me. Questa la dovrei suggerire ad Ariel e Frick Anthony per quella nuova spassosa rubrica che hanno inventato all'interno della loro Pane, Burro e Rock and Roll. I passerottini e le passerottine più affezionate alla radio sicuramente non si sono perse le esilaranti esibizioni di Frick accompagnato da Ariel. I due si cimentano regolarmente in versioni di grandi pezzi rock del passato, come se i musicisti che li hanno scritti ed eseguiti fossero di Casal Pusterlengo invece che ne so, di Liverpool o New York. Ma questo succederà tra tanti, tanti minuti. Al momento siete all'Early Bird Special. Il vecchio Chucky Boy vuole farvi mordere dagli Scorpions. Still Loving You. I will. Io so per certo che migliaia di passerottini e passerottine lì fuori sanno a memoria cosa succede all'Early Bird Special. Quella vecchia lenza di Chuck Bird sceglie dei bei dischi da trasmettere e quando alla luna per il verso giusto vi racconta anche delle storielle sulla vita, la morte, i miracoli delle nostre rock and roll star preferite. In questo caso una storia di pugni e calci. Dovete sapere che i Led Zeppelin avevano un manager che assomigliava all'orco cattivo delle fiabe, un uomo grande e grosso che rispondeva al nome di Peter Grant. Era sveglio, intelligente, furbo, ma aveva anche un caratteraccio mica da ridere. Già all'inizio della carriera dei Led Zeppelin, i suoi rapporti con Bill Graham, uno dei più importanti promoter americani, erano partiti piuttosto male. Ogni volta che i Led Zeppelin suonavano in America, doveva avere a che fare con Bill Graham, e ogni volta erano casini. Il 23 luglio 1977 il gruppo inglese suonava all'Oakland Coliseum, una data organizzata da Graham. Il giovane figlio di Peter Grant, Warren, girellava per il parcheggio dei tir che i Led Zeppelin usavano per trasportare il materiale di scena e vide su di una roulotte, piazzata proprio dietro il palco dove in quel momento si stavano esibendo i Led Zeppelin, un bel cartello col nome del gruppo. Allora il giovane Warren chiese ad un agente di servizio, quelli di sicurezza, assoldato da Bill Graham, se poteva prenderlo. Il tipo trattò in maniera piuttosto brusca il ragazzino. Peccato che ad assistere alla scena ci fosse Bonzo Bonham, il batterista delle Zeppelin. Bonzo scese dal palco, insultò l'uomo della security, gli mollò uno sganassone prima di risalire sul palco e continuare nell'esibizione. In quel momento arrivò anche Peter Grant, che prese il tipo e lo trascinò in una roulotte. Quando Peter Grant finì col ragazzo, dovettero chiamare l'ambulanza. Ehi, chissà quante band pagherebbero per avere uno come Peter Grant come agente. E chissà quanti agenti vorrebbero avere i Led Zeppelin nel loro roster. Ma lo sapete che si sono riformati? Andrete a Londra al concerto? Se non siete fra i pochi fortunati possessori del biglietto, ho proprio paura che dovrete accontentarvi, si fa per dire, della loro musica incisa. Questo è uno dei loro capolavori. Babe, I'm gonna leave you. from this place. I gotta quit you, yeah. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, I'm still here and calling him. Oh, woman. Woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We're gonna go walking through the park. Rock FM. Buongiorno e ben ritrovati anche il lunedì. Qui da Rock FM non si scherza per niente. Ragazzi, vi vogliamo pimpanti e tonici, perché la settimana aspetta solo voi e voi dovete affrontarla a muso duro. E se siete qui vuol dire che avete fatto la scelta migliore già dal lunedì mattina. Questo è l'Early Bird Special e questi sono i Talking Heads, Burning Down the House. Tutti i giorni il vecchio Chucky Boy vi tiene compagnia con l'Early Bird Special dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7. Naturalmente qui in radio c'è pochissima gente a quest'ora, ma non può mancare la dolce Cherie, che proprio in questo momento mi rifornisce della mia dose quotidiana di caffeina. Dolce Cherie. Do it! Early Bird Special, il grande buongiorno che vi arriva tutti i giorni qui da Rock FM, anche il lunedì e ancora una volta con il vecchio Chucky Boy, Chuck Bird, per servirvi con la migliore musica in circolazione e con qualche storiella sulla vita, la morte, i miracoli delle rock and roll star preferite. Dopo i Rainbow, I Surrender, grande musica, questa volta un pochino più dolce, un po' di zucchero nel vostro caffè. Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson. L'Early Bird Special non è una torre d'avorio che non si può raggiungere nonostante l'orario. Voi potete comunicare col vecchio Chucky Boy utilizzando la nuovissima tecnologia offerta da internet. Potete digitare sulla vostra tastiera bird@radiorockfm.com e la dolce Cherie farà modo di stampare le vostre missive e di porgermele. Questo esempio è abbastanza carina, infatti me la voglio leggere e ve la voglio leggere. Mi scrive Alex, che è un passerottino da Monza, e dice: caro Chuck, ti ascolto tutte le mattine dalle 6:20 in poi, ora in cui poggio le mie chiappe in macchina per andare al lavoro. che disturbo. Forse volevi dire che immensa rottura di palle, no? Perché qui si può dire, non siamo mica in fascia protetta. Ok, Alex, prosegue. Per fortuna ci sei tu con la tua grande musica e le tue baggianate che mi tengono compagnia. Per te e per tutti gli eroi che ogni mattina, compreso lunedì, affrontano a viso aperto la tangenziale, ecco David Bowie. Heroes, gli eroi di tutti i giorni, i miei passerottini e le mie passerottine, che per prime aprono le alucce e stropicciano gli occhietti. E anche i miei heroes del rock and roll, come Iggy Pop, un fottuto numero uno. Beh, questa è una storia che ci riguarda da vicino. Era il 1988 e la città di Milano, perlomeno i rocker di Milano, stavano aspettando il concerto che Iggy Pop doveva tenere a Rolling Stone lunedì 21 novembre. La sera prima Iggy e la sua band, che comprendeva anche il chitarrista Andy McCoy degli Hanoi Rocks, suonava a Zurigo. La mattina dopo il concerto svizzero, la band si reca all'aeroporto di Zurigo sotto una tempesta di neve. E una volta arrivati in aeroporto, scoprono che, proprio a causa della neve, tutti i voli sono stati cancellati. La crew con tutti gli strumenti è invece partita regolarmente la sera prima e sono tutti arrivati nella nostra Milano. La band torna all'albergo per decidere cosa fare. Tutti sono indecisi, tutti tranne Andy McCoy, che vuole a tutti i costi suonare in Italia. Ad un certo punto guarda Iggy negli occhi e quasi gli urla addosso: un rocker non rinuncia a un concerto se non in punto di morte. A Iggy non serve nient'altro. La band decide fidelmente di partire per l'Italia in treno. Arrivarono a Milano giusto in tempo per togliersi i cappotti e salire sul palco del Rolling Stone. E fu un concerto memorabile. Eccolo qui, Iggy Pop all'Early Bird Special. Questa è Cry for Love. Cry for love, 'cause imitation. E come tutte le cose belle, anche l'Early Bird Special di questa mattina deve chiudere i battenti. Io vi ringrazio per l'ascolto, ma vi lascio con i restanti programmi da Rock FM che vale la pena ascoltarli tutti. E la precedenza va naturalmente all'Ariel e Freak Anthony, con pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto, grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani mattina alle 6 con Early Bird Special. Ciao!